Secondo una ricerca recente svolta dal Credit Suisse Research, Hai visto che leggi anche i report finanziari? hai Brava, visto? Ma brava, sono diventata brava, roscianina io. brava. Buongiorno a voi, cari signore, sono sempre contento di sentirvi, siete proprio stupende, guardate. Oh, grazie Emanuele. Dai. Chiamatemi quando volete perché di complimenti ne ho tantissimi. Perfetto. Claudio, vada, veloce. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosea. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Guarda la lì stamattina, tutta bella contenta. Hai incontrato il tuo amico Giacomo Poretti al Parco Ravizza? Io vi ho sentito l'altro giorno che vi siete dati appuntamento lì, eh? Ma ha qualcosa di particolare questo parco? È un parco un po' galeotto? No, dai, Deborah, il parco che ho vicino a casa, dove vado a passeggiare col mio cane, la mitica Immona, è lei che mi fa correre. Ah, ecco, adesso che hai detto questo, i nostri ascoltatori sapranno tutto dei tuoi risparmi, già sanno tutto della tua età, adesso sanno anche che abiti in centro a Milano. Ti sposteresti volentieri, però, Nicoletta? Sai che, Deborina, io non ci ho mai pensato. Direi che noi stiamo bene qui, dove abitiamo, e abitiamo lì da tanto tempo, ma hai qualche suggerimento? Perché mi fai questa domanda? Guarda, ragionavo a voce alta perché ho letto proprio in questi giorni che molte famiglie si spostano in periferia in cerca di spazio e anche di tranquillità. Magari spenderanno anche un pochino di meno dal centro a passare lì in Sai periferia. che facciamo? Glielo chiediamo. Allora, se vi siete spostati dal centro alla periferia o se state pensando di farlo e state facendo due conti sui vantaggi economici, ma non solo, siete arrivati qua e questa è la vostra puntata 800 24 00 24. Oggi ci spostiamo dal centro alla periferia, ma chissà se c'è qualcuno che ha fatto il viaggio inverso. E allora dal centro alla periferia e dalla periferia al centro è il tragitto che fa il nostro sangue in quella straordinaria rete stradale che sono le vene, le arterie. Questa è un'altra forma di circolazione assolutamente necessaria per la nostra vita. Se volete parlarne, 800 24 00 24, 349 238 6666. Se invece volete lasciarci un messaggio, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. E quindi, se volete parlare di circolazione, restate con noi. Ne parliamo a partire dalle 11:45. Nel frattempo, iniziate a raccogliere qualche indizio, segnali che vi mandano le vostre periferie, formicolii, pruriti, temperatura, mani, piedi e testa. E allora, tutti i contatti che potete utilizzare naturalmente per interagire con noi, Nicoletta ve li ha appena ricordati adesso? Partiamo. E andiamo a fare un giro in centro. Salva Danaio. Io amo la periferia, da quando ho incontrato te, mi piace aspettare la sera seguendo le A Filippo non strade. piace la canzone che abbiamo scelto stamattina, ma lui che ne sa di Sergio Endrigo? Mitico Sergio Endrigo, ma adesso fa così, ma Gli gli piacerà. piace, la canticchia anche E lui. allora, tra un canto e un altro, sai che stavo pensando che è arrivato il 15 del mese ed eccolo che zac, è arrivato lì l'estratto conto e la carta di credito. Facciamo a meno di pensarci e pensiamo a qualcosa di più consistente, il mattone. Noi parliamo di casa questa mattina, ma non di compravendite, quindi non di mettere in vendita un appartamento, di comprarlo, bensì di affitti. Gli italiani preferirebbero essere tutti i proprietari della loro casa, almeno della prima, ma si sa che di questi tempi comprare casa è Caspita. diventata un'impresa molto difficile. Allora, molte famiglie, soprattutto le giovani coppie che si accingono a mettere su famiglie e giustamente non ci vogliono rinunciare, sempre di più scelgono l'affitto. E non sempre una scelta dettata solo da questioni economiche, ma anche dalla qualità della vita. Molte famiglie mollano la casa di proprietà in centro città per andare in periferia, magari prendendo una casa più E grande. allora andiamo un po' ad esplorare questo mondo. Su che livelli viaggiano nelle cosiddette periferie i canoni di locazione? È davvero conveniente fare questa scelta dal punto di vista economico? In quali città si segnalano i trend più interessanti? 800 24 00 24, raccontateci in diretta che movimenti registrate nella vostra città, come direzione hanno anche i canoni d'affitto, siete proprietari, magari in procinto di affittare una vostra proprietà o state cercando un appartamento in affitto, magari in un'area periferica, ma non sapete se il canone che vi chiedono sia in linea con il mercato. Guardo, perché accanto a Debra, Debra ha una pila di fascicoli, sono violetti e hanno un riquadro bordeaux. Già la grafica mi piace, ma è un, sono fascicoli che interesseranno sicuramente i nostri ascoltatori. Lo dico io che cosa sono, sono i quaderni del Sole 24 Ore, i quaderni dell'Esperto Risponde. Qualche settimana fa il Sole ha pubblicato i quaderni sugli affitti, ne ho più di 10, per cui tutti gli ascoltatori che sono interessati, che questa mattina ci faranno delle belle domande sul tema dell'affitto, sono pronte naturalmente a regalarlo. O che ci racconteranno anche consigli interessanti, ci daranno dei suggerimenti utili. Ottimo, ma siccome noi non è che siamo proprio delle espertone su questi argomenti, io ne ho due questa mattina che ci accompagneranno in questo primo viaggio dedicato al mondo immobiliare. Paola Dezza del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao Paola. Posso raccontarlo che questa mattina un po' come Nicoletta sei rimasta imprigionata del traffico milanese? Magari stamattina forse sarebbe stato più conveniente vivere in periferia. Che ne pensi Paola? Probabilmente sì, oggi la pioggia, una manifestazione hanno bloccato completamente la città. Milano paralizzata. Bisogna andare a piedi. Ecco, te lo dico quello, io, vedi che certo che se si abita un po' dall'altra parte di Milano. Isabella Tulipano, del franchising immobiliare Solo Affitti, buongiorno. Buongiorno a voi. Lei dove... il traffico non lo conosciamo, va bene. Infatti, la Tulipana dice... Insomma, un poker di donne. Hai visto? E ti dirò che la prima ascoltatrice che vuole intervenire sull'argomento è Laura da Monza. Fantastico. E la vogliamo sentire subito, vediamo se ci dà un là interessante al programma. E già possiamo regalarle già subito il fascicolino? Se lo vuole, molto volentieri. Guarda, lo regaliamo solo alle ragazze? Facciamo una cosa addirittura così. Laura, buongiorno. Buongiorno. Allora, qual è stata la sua scelta di vita? Mi sono spostata dal centro di Milano e sono venuta a vivere in un paese dell'Interland milanese. Sì, possiamo sapere quale, Laura? Brugherio. Si trova bene? Mi trovo molto bene, è stata una scelta che ha escluso la, diciamo così, la periferia, perché ci sembrava un po' una terra di nessuno. Ma Laura, la scelta è stata dettata da ragioni di carattere economico o perché volevate, come dire, migliorare un po' la qualità della vostra vita? Volevamo migliorare la qualità della nostra vita. Quindi in questo caso i soldi non c'entrano? No. Bene, allora la richiameranno o Laura o Marco per darci il suo indirizzo se vorrà ricevere appunto la nostra guida. Però mi dica tre aggettivi che raccontano un po' la qualità di vita in questo nuovo paese in cui è andata a vivere, perché... Se no è troppo facile. Dai, tre aggettivi facili. Tre nomi, tre colori. Tre definizioni. Brava. Io adesso vedo le stagioni, il cambio delle stagioni. Sì. Nel senso che ho alberi intorno a me. E, ho una comunità, sento di appartenere a una comunità e non c'è traffico. Tutti i servizi che mette a disposizione il comune o che sono servizi sul territorio li raggiungo alla velocità della luce. Quindi più che aggettivi si è proprio, come dire, sbilanciata con delle definizioni della sua nuova vita. Bello, molto interessanti. Me le segno: stagioni, comunità e piacevolezza, facilità negli spostamenti. Grazie Laura. Grazie Laura, buona giornata. Paola Dezza, prima di andare a fare un punto dettagliato città per città, qual è la situazione generale in Italia del mercato degli affitti e cosa porta a preferire l'affitto alla compravendita? È unicamente una scelta di carattere economico? Diciamo che in questo momento il mercato degli affitti richiama tutta quella domanda che non riesce ad accedere al segmento delle compravendite per motivi diversi, che sono l'impossibilità di accedere al credito, come abbiamo detto più volte, perché bisogna risparmiare, magari ci si trova in famiglia ad avere un reddito solo e prima se ne avevano due, quindi sono diverse le motivazioni che spingono a scegliere un segmento che è quello dell'affitto, diverso dalla proprietà sostanzialmente. Per cui il driver è sostanzialmente anche il risparmio che guida molto le scelte in questa fase in Italia. Infatti Paola, tu sul Sole proprio ieri scrivevi che c'è chi mette in affitto la sua prima casa e va di nuovo in affitto in una casa più grande, scegliendo naturalmente la periferia o un paese dell'Interland. Quindi è un fenomeno nuovo sostanzialmente? Sì, questa è una tendenza proprio nuova, mettere in affitto la propria prima casa, che magari è una casa grande in una zona centrale, che quindi permette di recepire un canone elevato, e scegliere magari di andare in una zona più periferica e differenza, insomma, è un'entrata sostanzialmente di qualche centinaio di euro che permette però magari di vivere in maniera un po' più agevole. Proprio ieri pomeriggio è stato diffuso un rapporto molto dettagliato, l'osservatorio annuale di solo affitti, franchising immobiliare, leader in Italia nella locazione. Dottoressa Tulipano, c'è una buona notizia perché mi sembra che in questo 2013 diminuiscono ancora i canoni di locazione. Nel nostro paese la diminuzione complessiva ammonta al 4,5%, essendo una media, quindi ci saranno dei trend molto differenti. Roma, Napoli e Milano, dopo i cali dello scorso anno, vanno verso la stabilizzazione. Sono proprio le città più rigide, no? Esatto, diciamo che sono anche le città che in realtà l'anno scorso avevano subito, insomma, dei cali molto più pesanti. L'anno scorso parlavamo per Milano di quasi un meno 12% in media, quindi come sempre, diciamo, le città metropolitane sono quelle che un po' anticipano i trend, quindi l'anno scorso avevano subito questa flessione notevole e quest'anno invece registrano in qualche modo una certa stabilità, e mentre i cali maggiori quest'anno li riscontriamo a questo punto più in provincia, in città come Perugia, Trieste, che forse risentono anche essendo città molto universitarie del minor numero di iscrizioni proprio degli universitari, e che insomma il cui ridimensionamento di questi canoni ovviamente si nota di più piuttosto che città come Milano e Roma, dove i canoni è vero che l'anno scorso sono diminuiti, anche quest'anno sono comunque flessione seppure minima, ma continuano a essere insomma canoni sostenibili difficilmente, perché comunque rispetto insomma a quelli che sono gli stipendi medi degli italiani, anche un canone di locazione in centro a Milano o a Roma continua a incidere notevolmente. Anche perché infatti se facciamo un paragone, sicuramente un canone d'affitto è più alto di una rata del mutuo attuale, il problema però è prenderlo questo mutuo. Infatti andiamo a Milano che c'è Lella. Lella, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, siete due deliziose ragazze, vi ascolto. Grazie Lella. Grazie per le ragazze Lella, soprattutto. Vai col fascicolo degli affitti. Guarda, le regalo una libreria, Lella ci dica un po'. Allora, mi ha colpito il fatto che la signora Nicoletta frequenti Parco Revisa, perché io abitavo lì fino a pochi mesi fa, in quella zona lì. Ho venduto una casa che era di mia proprietà per la metà, erano 100 e pochi più metri quadri, sì. E sono riuscita a comprare una casa un po' 2 chilometri più in fuori, sì. Verso dopo il viale Cermenate, ma prima del piazzale Abbiategrafo, insomma in una posizione buona ancora, ho comprato una casa per me, una per mia figlia, sempre stessa zona, e ho dato il resto a mio figlio. Che sta pagandosi già per conto suo. Guardi Lella, se vi foste incontrate a Parco Ravizza qualche volta passeggiando con il cane, avrebbe potuto dare dei buoni suggerimenti a Nicoletta, che credo abbia più o meno adesso le stesse esigenze, no? Certo, perché due figlie che stanno terminando l'università. Lella, incontriamoci al Parco Ravizza. Che così tiriamo su anche Giacomo quando corre, io porto il cane. E insomma, Giacomo, la prima Boretti, giornata che salutiamo con affetto. Imona, ho capito giusto. Il mio cane si chiama Emma, ma dato che è grande è diventata Imona. Imona. Lella l'aspetto e quindi... Lella, grazie molte per la sua testimonianza, e quindi credo fondamentalmente dettata dalla ragione economica in questo caso, comunque con una casa ne ha prese tre. Paola, cosa ne pensi? Paola Dezza. È una scelta che molti stanno facendo, sia sul fronte delle compravendite che sul fronte proprio degli affitti, perché il risparmio, comunque mettere a posto tre famiglie invece di una, è una valutazione che in questo momento si fa. E per quanto riguarda l'affitto, quello che abbiamo visto noi è la tendenza proprio a spostarsi in città satellite, dove si può comunque mantenere una casa in una zona centrale e spendere molto meno e raggiungere in maniera agevole il posto di lavoro, quello che succede per chi si sposta da Milano a Torino o a Pavia o ancora a Monza, che riesce in poco tempo, a Torino con l'alta velocità e poi con altri mezzi da Monza a Milano, ad arrivare sul luogo di lavoro, però vivere sostenendo un canone molto più basso. 80024, sì. Grazie Paola, 80024 0024, il numero verde che ancora potete continuare ad utilizzare per condividere con noi le vostre esperienze di trasferimento dal centro alla periferia. O magari dalla periferia al centro. Brava, ragioni economiche o ragioni di qualità della vita vi hanno portato a questo cambiamento, e naturalmente accanto alla condivisione delle vostre testimonianze stiamo anche, come dire, occupandoci della mera questione economica, e quindi cerchiamo di capire come sta andando in questo momento il mercato degli affitti, perché sempre più famiglie optano per questa modalità di abitare, chiaramente, visto che il mutuo ancora è un tema un po' difficile da affrontare con la banca. Isabella Tulipano, di Solo Affitti, esistono delle relazioni fra le discese dei canoni che abbiamo indicato prima e la tipologia degli immobili, ad esempio? Che differenza c'è tra un trilocale di Roma, uno di Palermo o di Trieste? Qui le variazioni dei prezzi appunto sono state marcate? Ma diciamo che al contrario, insomma, a Milano abbiamo notato un calo maggiore nei monolocali, come se appunto l'immobile più richiesto in questo momento, se possiamo dire come tendenza, fosse quello un po' più grande, un trilocale, un quadrilocale. Questo non perché ad abitarlo insomma sono famiglie più numerose, ma perché si va diffondendo anche in Italia il fenomeno della condivisione dell'immobile. Infatti. Quindi più lavoratori, più studenti, ma anche insomma persone che non si conoscono in qualche modo sono disposte a suddividere gli spazi, se questo vuol dire comunque poter spendere meno, quindi suddividere le spese innanzitutto del canone di locazione e poi anche quelle ovviamente di condominio, di utenze che incidono anche quelle poi a fine mese. Vogliamo leggere qualche messaggio, Nicoletta, tra l'altro ne vedo qualcuno anche interessante. Daniela da Viareggio dice: andrei in periferia solo per soldi, ma odio il silenzio e stress, secondo me abiterei a New York se potessi. Daniela, come darle torto. Anche noi ci trasferiamo volentieri a New York. Ecco qua, insieme a Paola Dezza, vero Paola? Perché anche tu so che l'ami molto. Allora, e poi Rolando, scusami, scrive, sì? Ci scrive: scusate la domanda, ma i calzini un po' stretti fanno male alla circolazione dei piedi? È carino allora vedere questo anticipo di quello che sarà il tema della seconda parte della nostra trasmissione, ma leggere il sms dei calzini in mezzo agli sms degli che affitti. Chiedono degli affitti mi è ci è sembrato originale, carino. Paola Dezza, cosa accade sul fronte degli investimenti? Se una persona invece di sottoscrivere per esempio una polizza vita, un fondo di investimento per risparmiare, compra la seconda casa per metterla a reddito, quindi per affittarla, anche questo, come dire, è un modo che scelgono le famiglie italiane per accantonare risparmio? Diciamo sempre meno, perché il segmento degli affitti soffre in questo momento, degli investimenti soffre in questo momento per le tasse troppo elevate che comunque erodono quello che è il rendimento. Siamo arrivati a rendimenti che sono dell'ordine del 2-3% lordo, quindi un rendimento che è molto basso. Se si parla poi di seconda casa, la seconda casa è un investimento in questo momento molto difficile, nel senso che se la si acquista solo per metterla a reddito, difficilmente si possono trovare gli inquilini, ma soprattutto si hanno dei soldi immobilizzati in un segmento che è molto illiquido in questa fase. Per non parlare di quanto pesi l'IMU e la tassazione, esatto, su questa seconda casa. Esatto, per noi abbiamo fatto proprio una guida che è uscita giovedì, che spiega proprio le nuove formule delle compravendite, ma anche quello che è il discorso degli investimenti proprio nella seconda casa, che in questo momento soffre particolarmente come segmento. Guarda, sai che c'è, che lo cerca, che la cerco, la guida e la regalo ai nostri ascoltatori insieme ai quaderni dell'esperto Risponde dedicati a appunto agli affitti. Vogliamo anche affrontare il tema dell'amorosità, perché è molto rilevante, perché leggiamo ogni giorno di casi drammatici di famiglie che sono in difficoltà, sotto sfratto, però è vero che anche non possiamo dimenticarci della situazione dei proprietari che non ricevono canoni magari per molti mesi, e però su quella rendita presunta, tra virgolette, ci devono comunque versare le tasse. È quello che ci raccontano anche gli sms dei nostri ascoltatori, che sono un po' divisi queste due parti. È un tema che genera parte del conflitto inevitabilmente. Raccogliamo una battuta di Paola Dezza e una di Isabella Tulipano. Volentieri, cominciamo con Isabella Tulipano, sì. Diciamo che quando ci chiedono che cosa si potrebbe fare in Italia appunto per cercare in qualche modo di ampliare quello che è un mercato che si sta imponendo proprio per le varie esigenze che avete già affrontato, quello che diciamo è che spesso i proprietari hanno paura a mettere in affitto il loro immobile, perché se hanno subito una causa di sfratto sanno che i tempi sono molto lunghi, per cui bisogna sempre distinguere, perché quelle di cui parliamo, le famiglie che sono bloccate, sono comunque persone che pagano regolarmente il loro canone di locazione e che quindi sono sfratti per finita locazione, per cui ovviamente il proprietario avrebbe necessità comunque di entrare nell'immobile, però dall'altra parte ha un inquilino che per esigenze non riesce a trovare altro ma paga regolarmente. Gli sfratti per morosità sono un'altra cosa, hanno tempi molto lunghi e quindi vuol dire che il proprietario non riesce a liberarsi, insomma è un termine non carino, di un inquilino che comunque non riesce a liberare l'appartamento, diciamo, sì, così. Esatto, e tra l'altro non riceve neanche, seppure basso insomma, neanche un minimo di canone di locazione, e quindi questi tempi troppo lunghi sicuramente scoraggiano un proprietario che ha subito almeno una volta uno sfratto. Cuore e denari. Guardando i colleghi nello studio perché noi balliamo, esatto, intanto che perché siamo molto molto giovani dentro e quindi scegliamo anche per accompagnare le nostre trasmissioni sui temi economici e non solo, anche delle canzoni molto divertenti, perché vogliamo alleggerire qualche volta un po' la pesantezza che ci circonda in un momento difficile. Proviamo a tirarci un po' su. E allora, gente di periferia, per parlare proprio di spostarsi dal centro alla periferia come scelta economica, perché magari si prende una casa più grande e si paga un affitto sostenibile, o anche perché è una scelta destinata chiaramente a migliorare la qualità della nostra vita. Ma a proposito di circolazione, noi parleremo di circolazione nella seconda parte della trasmissione con il nostro esperto, ormai posso anticiparvelo, è il dottor Massimo Gualerzi. Parliamo di circolazione perché il tema di oggi, del spostamento dal centro alla periferia e il ritorno dalla periferia al centro, perché molti di voi ci stanno scrivendo che si sono allontanati e poi si sono di nuovo riavvicinati, ci ha suggerito di parlare della circolazione del sangue che segue proprio questa direzione, dal centro alla periferia e dalla periferia al centro. Ma vorrei leggere il messaggio che ci scrive Max da Padova. Ho acquistato un mono di 20 metri quadri come seconda casa e solo l'IMU si porta via due mensilità, le tasse altre due, le spese condominiali e la manutenzione altre due. Ditemi voi che cosa rimane. Hai voglia, come dire, ad affittarlo, che chissà se si riesce a rientrare anche di questi oneri sostenuti. Isabella Tulipano, che ne pensa? Nel caso di Padova è il monolocale, peraltro città universitaria, quindi sarà stata fatta una scelta precisa. E sicuramente, insomma, le tasse pesano. È vero che la cedolare secca è stata l'unica boccata d'ossigeno per i proprietari. Tra l'altro questa nuova aliquota al 15% per i contratti canone concordato e quello per gli studenti universitari rientra in questa tipologia, aiuta i proprietari, insomma, perlomeno a pagare un po' meno tasse sui redditi da locazione. Quindi da una parte l'IMU, dall'altra parte almeno rispetto, insomma, a quando pagavano l'IRPEF, la cedolare secca comincia a essere diffusa, conosciuta e soprattutto utilizzato, ormai quasi un 70% dei proprietari scelgono la cedolare secca rispetto all'IRPEF, ricavandone, insomma, un guadagno effettivamente elevato. Quindi, come dire, l'opzione fiscale c'è. Ma quindi, se io volessi comprare una casa e metterla a reddito, no? Per magari in un luogo di villeggiatura o in una città universitaria, come potrei tutelarmi? No, peraltro, perché sicuramente, come dire, teoricamente sono proprio perché per la loro natura possono far sottoscrivere contratti di affitto più limitati nel tempo, diciamo più ridotti. Questa è già una forma di tutela, Isabella Tulipano, cioè il fatto di scegliere una città universitaria, una località di villeggiatura. Sì. Che ne pensa? Sì, questo sì, diciamo che non è tanto convinta, però non le sembra una buona idea. O abbiamo fatto la domanda in maniera contorta, però. No, è perché comunque queste tipologie di contratto hanno dall'altra parte dei vincoli che devono essere rispettati. Prima fra tutto il fatto che se siamo in un comune ad alta densità abitativa, questi contratti vanno stipulati con un canone concordato. Perché stipularli con un canone libero vorrebbe dire comunque in qualche modo renderli irregolari. I canoni concordati, come sappiamo, in alcune città sono applicabili perché sono aggiornati, quindi le associazioni di categoria periodicamente si fermano, li riaggiornano e li adeguano, quindi sono un po' più bassi rispetto al canone di mercato, ma comunque sostenibili. Sappiamo che in altre città, prima fra tutte Milano, questi accordi sono stati siglati nel 99, quando è entrata in vigore la nuova legge, ma non sono più stati rivisti. Quindi diciamo che chi vuole affittare a Milano, per esempio, un monolocale per uno studente universitario fuori sede è costretto comunque a fare un 4x4, non potendo prendere in considerazione, se vuole stipulare ovviamente un contratto a regola d'arte, un transitorio o un contratto per studente universitario fuori sede, perché dovrebbe applicare un canone di locazione molto molto più basso rispetto a quello che è il canone di mercato. Allora, e a proposito di Milano, pare proprio che la trasmissione di oggi sia più o meno, non dico milanocentrica, ma lombardocentrica, perché appunto sono gli ascoltatori che ci chiamano di più stamattina. Che sentiamo? Lorenzo, che ci chiama da Milano, non a caso. Buongiorno. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a voi. Che scelta ha fatto? Allora, personalmente ho fatto una scelta come la ragazza che ha chiamato prima. Sono andato via da Milano centro per andare nella periferia. Appunto, mi sento molto di periferia. Sono andato in una zona nella Brianza, che è molto bella, e e si può dire che a 20-25 km da Milano ci sono dei posti veramente incantevoli. Senza dove lavora Lorenzo? Va avanti e dietro? Sì, avanti e dietro, un po' subisco il traffico, lo odio, a volte lo evito. Io direi però mi permette di vivere in un posto veramente... veramente bello dal punto di vista paesaggistico, ma anche dal punto di vista del tessuto sociale. Dal punto queste parole ritornano anche nell'intervento della nostra ascoltatrice. Aveva sottolineato la possibilità di vedere finalmente il cambio della stagione, la comunità, e sono tanti, Lorenzo, i nostri ascoltatori che hanno accettato il nostro invito e ci mandano delle descrizioni, alcuni usano degli aggettivi, dei luoghi in cui si sono trasferiti. Vogliamo leggere Matteo su Facebook, che ci scrive che il suo nuovo luogo in cui abita è aperto, fresco, allegro, mentre Angela arioso, tranquilla e verde. Poi ci sono altri messaggi che arrivano. Abbiamo perso Lorenzo perché gli avrei voluto chiedere se quello che riesce ad ottenere con il contratto d'affitto in centro a Milano gli permette di pagare appunto l'affitto anche in Brianza. Non lo abbiamo più, ma sentiamo Maria Grazia della provincia di Varese, che invece finalmente abbiamo una voce fuori dal coro e vogliamo fare qua il percorso inverso. Maria Grazia, buongiorno. Buongiorno a voi, siete davvero in gamba, complimenti. Grazie. Due fascicoli, Maria Grazia. Ci dica. Il mio percorso è stato nel 90, abitavo in via Washington e avevo due bambini di circa 10 e 12 anni. Era impossibile parcheggiare la macchina, era impossibile avere del tempo libero. E allora col marito abbiamo deciso di andare lontano, in Brianza, come l'ascoltatore di prima. Però ci siamo spostati in un contesto che avesse comunque una connotazione di tipo cittadino e siamo arrivati a Saronno. Tutto bene fino a qualche anno fa, quando i ragazzi hanno cominciato a frequentare l'università e si sentivano esclusi dalla città. Con il risultato che ora uno lavora all'estero, l'altro è rimasto a Saronno, sposato. E lei che ha fatto? Con un gran rimpianto per Milano. Ah, lei si è trasferita di nuovo. È tornata? No, io sono ancora a Saronno perché ritornare a Milano con i prezzi delle case oggi, volendo ritornare nella zona da dove ero venuta, sono impossibili. Ma lei anche, non so, adesso mi permetto di entrare direttamente a casa sua, Maria Grazia, vendendo la sua proprietà a Varese, magari riesce ad acquistare a Milano qualcosa di un po' più modesto, ha fatto un conteggio se è nella capacità appunto di fare questa operazione? Sì, solo che le case in questo momento a Saronno o comunque nella Brianza hanno subito un abbassamento almeno del 30%. E qua invece... Milano invece no. Perfetto. Non tanto, Maria Grazia, si goda Varese, che cosa possiamo fare? Oppure aspetti un pochino e magari chissà che anche a Milano, Isabella Tulipano, magari qua qualche altra riduzione potremmo anche vederla a breve. È un miracolo, insomma, un miraggio? Diciamo che la questione in effetti è un po' ferma, questo perché molto probabilmente anche quelli che hanno acquistato negli ultimi anni a Milano hanno già acquistato a Milano come nelle altre città, hanno acquistato comunque a dei prezzi molto alti, per cui oggi se non hanno veramente bisogno di liquidità preferiscono aspettare, quindi aspettare che il mercato in qualche modo possa ripartire, anche perché il mercato immobiliare ci è abituato a questa ciclicità, per cui ormai sono 4 anni circa che continuiamo a misurare degli abbassamenti dei livelli del valore dell'immobile, quindi ci aspettiamo che prima o poi la ripresa, come in generale la ripresa economica, ci sia anche per il mercato immobiliare. Possiamo spostarci finalmente in un'altra zona d'Italia. L'ultima telefonata per il nostro approfondimento sugli affitti la assegniamo a Domenico da Barletta all'800240024. Domenico, buongiorno. Sì, buongiorno, saluto a tutti gli ospiti. Grazie. Allora, io chiamo da Barletta, che è provincia da un paio d'anni. Facciamo parte di un trivalente Barletta-Andrea Trani. Queste province che sono anche un po' precarie adesso, chissà. Esattamente. E volevo segnalare, insomma, la mia scelta di vita, perché io sono un lavoratore dipendente da 10 anni, insomma, con un reddito sicuro annualmente, e siccome ho messo su famiglia subito, io ho appena 32 anni, c'ho un bambino, il più grande, che è di 7 anni, bravo. Insomma, 26 anni, sì, mi sono ritrovato papà, e nel corso di questi anni, insomma, non mi sono stato fermo. Veloce, Domenico, che dobbiamo andare in pausa. Quindi? Sì, niente, volevo segnalare come io qualche anno fa ho deciso, insomma, di provare a comprarmi casa proprio in città da me. E niente, mi hanno messo un po' le strette, perché noi essendo già 5 come nucleo familiare, io, mia moglie e 3 bambini, la rata del mutuo non ci stava, quindi. E non ci stava, perché loro mi chiedevano... È andato in affitto. Domenico, dobbiamo salutarla. Che prezzi ha l'affitto a Barletta? Barletta, insomma. Sono andato in affitto a Barletta perché come rata del mutuo mi oscillava da 600 a 700 euro per 30 anni. E l'affitto quant'è? E l'affitto ne pago 500, ma il discorso è un altro, perché io adesso in affitto sto con 100 metri di quadri, di casa, certo. Allora, invece, se io mi... Se comprava casa, doveva casa, comprare... Domenico, abbiamo... volevano cioè, mi Domenico, grazie, grazie, grazie. Veniamo grazie. A trovarla noi a Barletta. Ci vuole raccontare tutto, condividere tutto con noi. Domenico, grazie. Comunque, abbiamo capito come stanno andando le cose. Direi circolare adesso. Esatto, circoliamo. Intanto ringrazio Paola Dezza ed Isabella Tulipano per essere state con noi. Salutiamo già il nostro prossimo ospite. Il dottor Massimo Gualerzi, che è già in linea con noi. Dottor Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma e all'Università di Parma. Buongiorno. Con lei circoleremo, ma adesso informazioni sul traffico. Cuore e denari. Le famiglie si spostano dal centro alla periferia, dal cuore della città all'Interland. È un viaggio simile a quello che fa il sangue, che dal centro, il nostro cuore, si sposta per raggiungere la periferia del nostro corpo, testa, mani, piedi, e una volta raggiunta la periferia torna al centro. In linea con noi abbiamo il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Don Gnocchi di Parma. Ribuongiorno, dottor Gualerzi. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Le piace un po' questa similitudine che abbiamo scelto di fare con Deborah, proprio agganciandoci al tema del cambiamento degli affitti, degli spostamenti che gli italiani stanno facendo, recandosi dal centro alla periferia? Alcuni vogliono tornare, come abbiamo sentito da una nostra ascoltatrice, di nuovo al centro, ma insomma sono in viaggio. Sì, direi, mi piace ed è molto azzeccato, un'immagine molto molto forte e azzeccata. Il sangue, diciamo che scorre in modo del tutto naturale, però per motivi non economici lascia il centro, il cuore, per raggiungere la periferia, la propria meta, il proprio destino. E là va a fare il proprio lavoro, quindi va a nutrire, va a rafforzare, no, proprio la periferia. Questo flusso avviene costantemente, secondo dopo secondo, momento dopo momento, e noi non ce ne rendiamo conto. Tutto scorre, ed è proprio il caso di dire così, in modo assolutamente naturale. Tutto questo fin tanto che non succede qualcosa, nel senso che questo avviene senza il benché minimo sentore, ma basta un cambiamento, soprattutto quando, non so, magari sentiamo le estremità più fredde oppure più calde, o un senso di formicolio, o un cambiamento del colore, per allarmarci e per sospettare appunto che ci sia qualche problema in questo scorrere naturale che abitualmente non ci desta nessun tipo di interesse. Essere e benessere. Mani fredde, dottor Gualerzi, cuore caldo, si è sempre detto così a proposito di gelide manine. La temperatura di mani, e metterei anche quella dei piedi, ci dice qualcosa della nostra circolazione? Noi ne siamo quasi convinti. Beh, in effetti è una convinzione giusta, anche se diciamo le mani fredde, i piedi freddi, le estremità fredde possono essere dovute a più fattori. In genere quando la temperatura esterna si abbassa eccessivamente, funzionalmente proprio le piccole arterie che scorrono sulla superficie, no, cutanea, vicino alla superficie cutanea, si restringono per limitare la perdita e la dispersione di calore e appunto far rimanere più caldo il nostro centro, quindi appunto cuore caldo e mano fredda, no? E tale difesa, quindi è proprio una forma di difesa, oltre a rendere delle volte fredde le estremità, le rende anche un pochino più pallide, quindi proprio viene a mancare quel fuoco, quello spostamento verso la periferia. Tra l'altro ho letto, dottor Gualerzi, sì, e ne parlavo con Deborah, che ho letto una ricerca curiosa che dice che quando tu stringi la mano ad una persona e la persona ha la mano non bollente, ma tiepidina, insomma, temperatura ambiente temperatura mano, sei subito portato più favorevolmente nei suoi confronti, mentre le mani fredde raggelano un po', cioè la persona ti fa un'impressione un'opinione un po' diversa. Queste sono delle ricerche curiose che ogni tanto noi leggiamo come in quella redazione. Ieri del caffè e il diabete, che poi è vera, il caffè che e il diabete, poi esatto, perché è stata confermata da ricerche che abbiamo fatto nel pomeriggio. Voi però state parlando al plurale, le mani, i piedi, ma dottor Gualersi, a volte la sensazione è riferita solo ad una mano. A proposito dell'estremità, possiamo avvertire questa sensazione di maggior freddezza in punta di dita. Io ci stavo riflettendo adesso, ho una mano fredda alla destra, ma ho particolarmente freddo il mignolo. Che sarà successo? È così, guarda. Dottore, venga, diciamo qua che... subito, dottor Gualersi. Mi devo fasciare. Vengo a scaldare le mani. In realtà le mani possono essere anche fredde, quindi quando diamo la mano a qualcuno, tornando un attimo al discorso di prima, quando siamo emozionati, quindi quando abbiamo o ci presentiamo a persone in cui abbiamo magari un po' di paura o di timore, nei confronti delle quali appunto notiamo un po' di timore, le mani possono raffreddarsi, e questo non è un segno di proprio di stress, di vasocostrizione legato proprio alla paura, allo stress. Quando invece è una sola delle due mani che tende a diventare più fredda, diciamo che il problema può essere non circolatorio, cioè può essere anche qualcosa di diverso, perché se parliamo di circolazione, di solito ad essere interessate sono tutti e due gli arti o tutte e due le estremità, in quanto non c'è differenza tra destra e sinistra. Sì. Quando c'è solamente una mano interessata, ecco lì bisogna fare qualche accertamento in più, e quando questo logicamente è un problema costante, perché delle volte invece è più fredda solo perché assumiamo delle posture che fa in questo caso arrivare meno bene il sangue, certo, a una mano piuttosto dell'altra. Però possono esserci dei disturbi di tipo nervoso oppure osseo, anche traumatici, ad esempio tipico dei pallavolisti che schiacciando costantemente, no, con un braccio o con una mano piuttosto dell'altra, tendono ad avere la mano che usano per schiacciare la palla più fredda, perché in quel caso i traumatismi continui ledono un pochino la circolazione e quindi fanno arrivare meno bene il sangue. Quindi diciamo che è meno un problema circolatorio, magari più traumatico un pochino, che riguarda anche altre strutture coinvolte comunque nel approvvigionare il sangue alla periferia. Ecco, la situazione cambia quindi se il disturbo è in generale, è quasi sempre così, lo avvertiamo in entrambe le mani, in entrambi i piedi o solo in una. Andiamo a Enzo che ci chiama da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io vi sento spesso perché viaggio per lavoro, anche se ho una certa, sì, età comunque. Bravo, no, Enzo, no, lei continui a viaggiare, ma sia rapido perché sennò dobbiamo andare a generare. Il problema è che da una quindicina di giorni, anche forse sì, più o meno, mi sveglio al mattino che ho la mano destra completamente, come si dice, addormentata, cioè non la sento, sì, e piego parecchi minuti a fare in maniera che si risvegli. Allora fermiamoci qui, esatto, dottor Gualersi. Perché dice di aver fatto gli esami ed è tutto ok, allora si chiede che cosa può essere. E intanto noi ci fermiamo, Deborah, ma poi il dottor Gualersi resta con noi, esatto, e poi nella seconda parte della trasmissione affronteremo tutti questi segnali, esatto, sospetti delle nostre estremità. 800 24 00 24, adesso c'è il giornale radio, torniamo tra pochissimo. Cuore e denari. E siamo tornati a Cuore Denari, oggi parliamo di circolazione dal centro alla periferia, dalla periferia al centro, e questo è il viaggio che fa il nostro sangue. Stiamo cercando di raccontare i segnali che ci danno le nostre periferie, cuore, testa, mani, piedi. In linea con noi abbiamo il dottor Gualersi, sentiamo questa canzone Sensibilità, a volte, come ci raccontava l'ascoltatore che abbiamo sentito prima del GR, le nostre estremità perdono sensibilità, faticano a risvegliarsi. L'ascoltatore diceva la mano rimane addormentata. Dottor Gualersi. Sì, anche in questi casi diciamo che a volte è colpa della circolazione, a volte no. Come nel caso di Enzo, prima il telefono ci ha rivelato il suo sintomo alla mattina, appena si sveglia impiega un po' di tempo a risvegliare questa mano. E in questo caso diciamo è più difficile, si tratti di un problema solo di circolazione, diciamo che più spesso è banalmente una posizione che assumiamo durante la notte, va a intorpidire diciamo i nervi e quindi con esso la sensibilità, e quindi ci svegliamo con la classica mano morta, che in medicina non è diciamo un atto diciamo volgare, ma è semplicemente il fatto di non sentire la mano per diversi minuti. La famosa mano morta. La famosa mano morta, dottor Gualersi, quindi se il problema lo avvertiamo, solo ad una mano, solo a un piede, non è circolazione. Questo possiamo dire, è più difficile. Insomma, ci possono essere, ad esempio, anche in quel caso, magari un problema alla colonna vertebrale, certo. No? Questo può essere le arti inferiori più facile un'ernia al disco, e agli arti superiori magari qualche un po' di artrosi a livello cervicale. Sentiamo qualche ascoltatore? Guarda quanti ce ne sono qua subito. No, io sai che voglio subito sentire Roberto da Perugia, che già immagino vorrebbe abbracciare, baciare sua moglie, però insomma lì quando si avvicina, trac, Roberto, che succede? No, soprattutto la sera, quando andiamo a letto, no? Premetto Roberto, che sempre... Roberto, e siamo, Roberto, in fascia protetta. Siamo in fascia protetta, no, che no, ci no, racconta? No, la sera mia moglie sente sempre freddo e non lento quanto le mani, ma quanto il naso diventa gelido proprio. Nonostante che certo che noi donne ce ne inventiamo di tutti i colori per prendere le attenzioni del marito, ma magari effettivamente sto scherzando, dottor Gualerzi, il naso errorato. Che cosa ci dice? La punta del naso gelata è un problema di circolazione o una richiesta di affetto? Ecco, diciamo richiesta d'affetto. Diciamo che non è un problema di circolazione, spesso soprattutto le donne alla sera hanno la pressione tendenzialmente più bassa e quando diciamo la pressione si abbassa il flusso si riduce soprattutto nelle estremità e quindi sia le mani che i piedi che appunto le estremità come il naso possono raffreddarsi proprio per il discorso che facevamo prima, insomma per andare a portare più sangue laddove ce n'è più bisogno e essendo in zona protetta appunto parlando di sera ci fermiamo qui insomma. Roberto, comunque, certo, al di là di tutto, comunque potete baciarvi come si baciano gli eschimesi, esatto, quindi si strofinano il naso come e magari punta, glielo scalda lui, ecco. Aurelio, non dirmi che hai il naso gelato, fammi tu, sentire . No, sai che c'ho il problema del mignolo, ma perché stavo appoggiata tutta storta prima e quindi... Aurelio, buongiorno. Buongiorno. E allora? Io ho 55 anni e dall'anno scorso ho i piedi ghiacciati, arrivo a casa d'inverno, tutte le sere mediamente ho i piedi ghiacciati, mi devo mettere delle calze, come dire, più spesse, ma anche a dormire, dormo con delle calze di lana perché altrimenti non riesco a addormentarmi. E mi succede anche delle volte d'estate. Il mio medico mi dice, beh, è normale, ha 55 anni, mi sembra una cosa un po' assurda. Dottor Gualè, vivere con questa cosa a 55 anni. E vorrei sapere se c'è un rimedio, qualcosa che posso fare. Dottor Gualerzi, io credo che sia arrivato il momento anche di raccontare ai nostri ascoltatori, partendo magari dalla similitudine che abbiamo utilizzato prima, no? Come sistema circolatorio, come una rete stradale, con strade, autostrade, superstrade. Ecco, per garantire dove il sangue passa. Allora, per rispondere agli interventi dei nostri ascoltatori che vogliono sapere che cosa fare per garantire una buona circolazione, forse bisogna anche avere un pavimento stradale tra virgolette in buono stato, garantire che il traffico dei veicoli sia regolare senza troppi intoppi e quindi il sangue fluisca bene per arrivare fino all'estremità. Dottor Gualerzi. Sì, assolutamente, diciamo che se immaginiamo le nostre arterie come delle strade, diciamo, è logico che vanno mantenute regolari affinché il flusso possa scorrere in modo appunto regolare. Quando facciamo questa similitudine pensiamo che l'irregolarità delle nostre strade, quindi delle nostre arterie, è quella che chiamiamo, no, tradizionalmente aterosclerosi, quindi dei problemi legati all'aterosclerosi possono, restringendo diciamo, le arterie, far arrivare meno sangue in periferia e quindi anche dar luogo a sintomi come possono essere diciamo, cambiamenti di temperatura. Anche se tornando alla discussione di prima del radiotelescoltatore, diciamo è più che altro, io indagherei più la componente magari ormonale oppure se ci sono molti farmaci che possono interferire. Sicuramente le arterie devono funzionare bene, devono anche essere regolate ed è il flusso diciamo che delle autovetture diciamo che circolano all'interno delle nostre arterie. Se pensiamo sempre alla similitudine, e queste autovetture possono essere le cellule appunto del sangue, come i globuli rossi, come le piastrine, che sappiamo che quando sono in eccesso o troppo attive, ad esempio possono essere in eccesso i globuli rossi nei fumatori banalmente, no? Sì. Quindi il sangue diventa più viscoso, questo impedisce un corretto flusso e anche qui diciamo può giustificare ad esempio la percezione di avere appunto le estremità fredde. Le piastrine invece quando diventano più diciamo collose, quindi quando tendono ad aggregarsi, danno luogo a quei fenomeni trombotici anche distrattuali che possono quindi portare alterazioni di circolo e con esso anche raffreddamento appunto delle estremità. Ci sono degli esami però, dottor Gualerzi, che ci permettono di capire come va la nostra circolazione, ma anche delle indicazioni che lei può dare per non fare un'autodiagnosi diagnosi, ma per capire che come sta andando. No, sicuramente, diciamo, oggi è abbastanza semplice andare a vedere lo stato delle nostre arterie, almeno quelle periferiche, che sono facilmente visibili anche con un semplice esame Doppler, che ci permette di vedere non solo la struttura, ma anche il funzionamento delle arterie. E quindi già con questo abbiamo, diciamo, l'esclusione di uno di quelle situazioni che più alterano il flusso sanguigno. Sì. Diciamo che poi il problema più importante potrebbe essere rappresentato dalla pressione, che è la forza con cui il sangue viaggia attraverso le nostre arterie, e qui io consiglio vivamente di monitorizzarsi il più spesso possibile la pressione. Noi spesso possiamo avere alterazioni, disturbi legati alla pressione senza percepirne assolutamente il fastidio, anzi a volte con la pressione alta, che alla lunga sregola completamente il flusso, no? Si può stare meglio, quindi io consiglio anche a tutti quelli che sono asintomatici di misurarsela e di non accontentarsi di un valore ogni tanto per definirsi normali. Dovremmo addirittura fare l'oltrapressorio, che è uno strumento che misura la pressione di giorno e di notte, perché visto che poi i problemi anche che percepiamo all'estremità sono anche durante la notte, alla mattina presto, è importante sapere come questa forza che regola appunto la circolazione del nostro sangue sia regolamentata nelle 24 ore. L'oltrapressorio è appunto un esame molto utile. Quindi è fondamentale valutare questo. Un altro consiglio che do è di sospettare appunto di avere qualcosa di alterato a livello arterioso quando la pressione massima e la pressione minima sono molto distanti tra loro, quindi tra la pressione massima e la pressione minima ci sono più di 50 punti di scarto, perché questo potrebbe essere l'espressione di una eccessiva rigidità delle nostre arterie, anche questa colpevole eventualmente di una cattiva circolazione. Dottor Gualerzi, facciamo un esempio: questo valore 50 è anche... Io pensavo al mio 70-120, che sono già al limite. 70-120, siamo tranquilli per Deborah? Perché il valore sono ottimali, perché comunque abbiamo dei valori ancora di normalità, no? Quindi siamo all'interno della norma. È logico che andando avanti con l'età la pressione massima tende a salire molto di più della minima, e quindi tipicamente dell'anziano abbiamo delle ipertensioni sistoliche isolate dove abbiamo magari dei 140-150 di massima e dei 70 di minima. Ecco, in questo caso non c'è solamente probabilmente un problema di ipertensione, perché c'è, ma anche un problema di rigidità dei vasi che fa sì che l'energia del sangue venga dispersa bruscamente, e dopo la forza che acquisisce durante appunto la sistole, cioè quella che viene studiata con la pressione massima, si abbia un crollo della pressione stessa, dando luogo appunto a una pressione differenziale molto alta. La pressione differenziale è la differenza tra la massima appunto e la minima. Quindi insomma devo fare attenzione andando avanti con l'età, come giustamente lei ha precisato, che questo gap, come lo chiamerei in termini economici, appunto non si allarghi ulteriormente, che soprattutto questo ampliamento e questo divaricamento non sia dovuto a quella alta che si alza di più. Ho sintetizzato, Sì, la donna di Denari in quattro soldoni, ce la racconta bene, dottor Gualerzi. Dottor Gualerzi, io voglio approfittare della sua presenza perché mentre Nicoletta, quando trattiamo gli argomenti di Denari, approfitta per fare le sue domande sul mercato immobiliare, sui suoi risparmi, io qua chiaramente mi faccio un check-up al giorno, come lei può facilmente immaginare. No, però io, Nicoletta lo sa bene, ho il chiodo fisso delle caviglie gonfie e sono un po' il mio punto debole, no? Allora io vorrei capire se lei mi può raccontare il vero e falso della caviglia gonfia, perché sono una sportiva, sono però anche un sacramento di donna, perché sono alta 1,80 m, quindi comunque anche un fisico importante. Come posso fare a debellare questo problema? Anche ha parlato di caviglia, al singolare. Sì, è vero, perché sì, soprattutto qui, una che mi dà problemi. Anche qui, sì, è tutto asimmetrico, nel senso che no, anche qui dovremmo parlare insomma per diverse ore e semplificare troppo c'è il caso di fare confusione. Io provo a semplificare un attimo, giusto per dire quelle che sono i luoghi comuni più sbagliati e un po' da smitizzare. Bravo. Diciamo che è falso che è sempre un problema di circolazione, quindi avere le caviglie gonfie non è sempre legato a un problema di circolazione, oppure a un problema come immaginiamo noi, sì. No? Ed è anche falso che è un problema grave, quindi molto spesso non è assolutamente un problema grave. È vero che le gambe si possono gonfiare anche solamente per il fatto che stiamo fermi, quindi magari conducendo una trasmissione radiofonica e restando magari seduti in ufficio o in studio per molto tempo. Meno di 10 ore mai. Ecco che le gambe possono gonfiarsi, o le caviglie, perché sono la parte più declive dove la forza di gravità impatta e dove il sangue fatica a ritornare verso il centro. Esatto. Quindi è il classico esempio di emigrazione verso la periferia senza un corretto ritorno, che sappiamo è facilitato molto dal movimento. Quindi la corsa appunto, che invece mi ha detto letto fare potrebbe essere un buon modo per farsele sgonfiare. Un consiglio è che se stiamo molto tempo seduti, no, dovremmo non indossare delle scarpe troppo strette o delle calze troppo strette, almeno troppo strette inteso che stringano attorno sotto, esatto, il ginocchio o nella caviglia, perché questo sarebbe un ulteriore, diciamo, ostacolo al ritorno del sangue. E neanche invece, biancheria intima, vero, dottor Gualerzi? Anche biancheria intima. Molto, certo, perché noi veniamo in ufficio con la biancheria intima frufru. Beh, tanto non si vede, esatto, però c'è. Ci vogliono i mutandoni, quelli classici. Eccola là, e così non ci fidanziamo. Siamo mai più. Ok, Nicoletta. Invece un'altra cosa che volevo dire è che è molto importante anche l'alimentazione su questo, perché ci sono alimenti anche qui molto spesso mistificati o nascosti, come potrebbe essere il sale, che è uno dei nemici più grandi della circolazione, ma soprattutto del gonfiore, perché quando mangiamo cibi salati, anche senza rendercene conto, quello nascosto all'interno degli alimenti, ecco che questo ci fa trattenere volume, e il volume in eccesso che abbiamo lo andiamo a mettere laddove la forza di gravità. Ho capito che il mio problema è il stare troppo seduta. Allora, dottor Gualerzi, abbiamo le telefonate che ci stanno aspettando all'800 24 00 24. Invitiamo gli ascoltatori, come sempre, a superare la barriera rosa, ma io vorrei prima chiedere se ci sono dei consigli anche alimentari, oltre che di stile di vita, comportamentali, per aiutare il sangue a fare il suo viaggio dal centro alla periferia e dalla periferia al centro. Si sente parlare molto spesso di aglio, ad esempio, no? Sì, l'aglio diciamo che ha delle proprietà, soprattutto quando mangiato crudo, è anche utile proprio per scaldare le mani e i piedi, ci sono diverse dimostrazioni come aumenti proprio la temperatura, quindi andrebbe bene per l'ascoltatore di prima. Una bella bagna cauda. Ma soprattutto perché, sì, ma soprattutto perché mantiene il sangue più fluido, quindi obiettivamente aiuta allo scorrimento proprio. E qui si potrebbe parlare delle ore anche sull'alimentazione, perché tutto il cibo antiossidante, no? Ma noi, dottor Gualerzi, la invitiamo. Noi siamo, e anche le nostre ascoltatrici sono innamorate di lei. Sì, esatto, c'è un'ascoltatrice, dottore, che adesso intanto la sto pescando, ma comunque eccolo qua. Grazie al vostro programma ho comprato, studiato e mi sono innamorata, quindi non è che ha fatto solamente così, uno studio superficiale dei libri del dottor Gualerzi e del dottor Ongaro, che adesso sono diventati i nostri preferiti. Tornerà. Venga qua col suo libro. Anzi, possiamo regalarne uno ai nostri ascoltatori con problemi? Veramente sarebbe il mio, però glielo regalo volentieri. Che hanno formicoli vari, hanno vari problemi con la circolazione presunta o presunti o veri, comunque ce li hanno. Super salute, ma qual è l'ascoltatore che sceglieremo? L'ultimo che supera la barriera rosa. Ottimo. Dottor Gualerzi, allora l'aglio. Poi vabbè, i mirtilli si dice sempre, ma non è stagione. I nostri ascoltatori poi ci dicono, parlate di cose di stagione, assolutamente, ma vanno bene anche quelli surgelati. Quali altro alimento possiamo suggerire? Tra l'altro i mirtilli surgelati vanno bene, meglio prendere cibi surgelati che quelli fuori stagione che vengono dall'altra parte del mondo, no? Perché mediamente quelli surgelati vengono surgelati, raccolti per tempo e poi venduti, ma sono di stagione. Sicuramente diciamo i limoni, no? Le arance, ma tutti i cibi, tutte le verdure diciamo contengono degli antiossidanti molto importanti. Invece vorrei, visto che parliamo sempre un po' di verdure che per quanto diciamo sono molto utili, però hanno meno appeal, diciamo così, poco appeal, parliamo anche di cioccolato, perché il cioccolato è un enorme regolarizzatore della pressione, e quindi diciamo che mangiare due pezzettini di cioccolato almeno al 70%. Non due barrettone, stavo dicendo due barrette, ma no, due quadratini, ecco, per darci un'idea, non due quadratoni. Di cioccolato fatto con il cacao almeno al 70%, attraverso le catechine, queste diciamo sostanze antiossidanti, abbiamo la possibilità di ridurre l'aggregazione delle piastrine, quindi far scorrere meglio il sangue, abbassare la nostra pressione, sfiammare le arterie, quindi ridurre l'aterosclerosi, e avere quindi un ottimo impatto sia sulla mente, perché sappiamo che il cioccolato ci rende felici, ma anche sulla circolazione, perché ha tutte queste Ma stanno proprio rivalutando questo cioccolato, devo ma dirti dimmi che dutur abbiamo noi, ma che guarda, ci fanno mangiare anche il cioccolato. Bello, è simpatico. Allora, no, andiamo da Gianna, ti prego, Gianna, perché qua buongiorno. È una donna che ci rappresenta tutti i problemi di tutte le donne. Gianna è il nostro mito. Mi sentite? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, innanzitutto saluto le due monelle che sono bellissime e bravissime, però passatemi il nome di monelle, il nome monelle. Ci piace molto. Guardi. Carinissime. Allora, comunque per il dottore già mangiato le due cioccolate, due pezzetti di cioccolato amaro. Tanto che aspettavo. Preso il caffè amaro. E volevo dirle anche una tra i cibi, mi ricordavo sempre sulle vostre trasmissioni, mi pare lo zenzero, dice che era un pochino riscaldante, poi me lo direte dopo. Volevo chiedere invece al dottore dottore, per le parti un pochino cicciottelle, cioè dove praticamente c'è un pochino di cellulite, sì, o dintorni, sì, le cosce, o dintorni, com'è che sono sempre ghiacciate? Ecco. E poi lo zenzero, se anche questo mi ricordo che era un pochino perfetto, riscaldante. Grazie Gianna, il libro di Super Salute. Anche lei un abbraccio Gianna. A Gianna, Super Salute del dottor Gualerzi. Okay. Dottor Gualerzi, abbiamo un minuto, parta! Sì, allora, le zone, diciamo, dove c'è proprio, è il motivo per cui viene la cellulite, perché in quelle zone arriva meno sangue, quindi sono meno irrorate, partecipano meno al metabolismo e quindi, diciamo che i nutrienti restano lì. L'alimentazione antiossidante, antinfiammatoria serve proprio per questo. La cellulite è un'infiammazione, l'infiammazione impedisce la circolazione e quindi non viene caldo e quindi non va via nemmeno la buccia d'arancia. Lo zenzero invece è proprio utile per questo, perché è un potente antinfiammatorio, stimola il metabolismo dei grassi e quindi è utile per dimagrire e anche per togliere la cellulite. Mangiato fresco o dentro i centrifugati, trattato insieme a altre verdure e frutta, è utile per appunto sbloccare il metabolismo. Bravo dottor Gualerzi, sa cosa faccio? Le faccio mandare anche a lei una guida per degli affitti. Certo, lei è in affitto in una casa queste, di queste contaminazioni. Dottor Gualerzi, affitto proprietà. Io ho comprato nel momento peggiore storico della bolla speculativa edilizia. Stia tranquillo che è in buona compagnia, vada tranquillo da questo punto di vista. Chiudiamo con 2 secondi, non ce la facciamo. Dai. Sulla melograna e la circolazione, mi dicono che è un portento. Sì, fa parte della stessa famiglia, il melograno ha detto, sì, giusto? Sì, sì. Sì, fa parte della stessa famiglia comunque dei mirtilli, questi sono ricchi di flavonoidi e quindi sono un portento per la circolazione, anche i mirtilli appunto lo sono. Come i nostri ospiti che sono sempre dei veri portenti e i nostri ascoltatori. Nicoletta, abbiamo terminato anche per quest'oggi e per questa settimana. Noi ci domenica in replica e poi lunedì in diretta alle 11, dottor Gualerzi, l'aspettiamo qui. Con il suo libro. Anticipo già il tema che affronteremo lunedì, lavori notturni, lavori usuranti a 360 gradi. Grazie a tutti. Buona giornata. A presto! Cuore e denari.